Italia in controluce. Ci sono storie di cronaca che fanno paura, altre che fanno sorridere, altre ancora che possono cambiare la vita, far pensare. Queste sono alcune delle storie raccontate ogni giorno in due edizioni da Italia in controluce. L'approfondimento della redazione di Radio 24 condotto e coordinato da Daniele Biacchessi. Crescono nelle principali carceri italiane le sartorie gestite dai detenuti. Personale specializzato cerca nuove strade per inserire persone che hanno sbagliato. La narrazione di Floriana Liuni. All'interno degli istituti negli anni Ottanta non si faceva un'attività né di formazione culturale né professionale. Migliaia di persone che stanno ferme così, cioè una ricchezza umana incredibile, ferma, chiusa, cioè inutilizzata. Una macchina da cucire per riparare gli strappi di una vita. Questo filo rosso lega migliaia di persone che nelle carceri italiane cercano di ritrovare la loro strada dietro le sbarre. Ex detenuto del carcere di Rebibbia, Silvio Palermo nel 1988 ha avuto un'idea. Insieme ad altri compagni ha fondato la cooperativa Seriarte Ecologica e ha inventato le magliette col marchio Made in Jail, famose per gli slogan legati alla vita carceraria. Noi il lavoro che facciamo all'interno dell'istituto con la formazione professionale, attraverso la tecnica serigrafica, che è una tecnica molto semplice. Li sproniamo ad acquisire un sapere spendibile poi all'esterno, in un futuro. Anche tra le sbarre del carcere di Lecce c'è chi lavora ad ago e filo. Sono le donne della cooperativa Officina Creativa, fondata nel 2007 da Luciana Delle Donne, un'imprenditrice dal passato da dirigente bancaria, che ora dedica la vita a dare una seconda chance ai tessuti dimenticati e alle donne detenute che li lavorano, creando gadget con il marchio Made in Carcere. Le donne detenute che lavorano con noi nei laboratori danno un senso al tempo perso, tra virgolette, in un carcere, perché è giusto anche che siano in una pena detentiva, è giustissimo però altrettanto dare un'opportunità di riconversione professionale. La specialità delle donne di Lecce sono le borse di tessuto, ricavate da materiali di scarto donati da alcuni grandi marchi. I tessuti rinascono a nuova vita e diventano borse che sono veri e propri oggetti di moda e trovano largo smercio soprattutto in rete. Noi abbiamo fatto oltre 150.000 borse, noi abbiamo Facebook, abbiamo 2.450 fans, e abbiamo il sito Made in Carcere, siamo su eBay. Dal 2005 invece il marchio sartoriale legato al carcere di San Vittore è Gatti Galeotti, ispirato alla tradizione che vede il carcere milanese come meta preferita dei gatti randagi. A produrre borse e gadget con il marchio del gatto sono le cooperative Ecolab e Alice, che fin dagli anni 90 danno lavoro a detenuti ed ex detenuti e a lavoratori delle categorie protette, con la supervisione di professionisti del settore. Massimo D'Angelo di Ecolab. Il marchio è nato pensando di alleggerire la problematica carceraria, cioè rendendola simpatica. È un po' una forma di sensibilizzazione sottile. I dipendenti delle cooperative lavorano sotto contratto nazionale e producono oggetti in tessuti a basso impatto ambientale come canapa, juta e perfino striscioni pubblicitari. Rispondere a logiche produttive imprenditoriali non è facile. Le vicende giudiziarie e personali dei lavoratori, infatti, rendono complicato rispettare le consegne. In più, la crisi ha colpito duramente le cooperative, meno resistenti alle flessioni del mercato, e purtroppo la collaborazione da parte di imprese e istituzioni lascia molto a desiderare. Alessandro Brevi di Alice e Massimo D'Angelo di Ecolab. Piacerebbe tanto che qualche grosso industriale ci prendesse sotto la sua ala protettrice, ma non succede. Una cooperativa sociale, nonostante il nome, non è che poi ha chissà che grandi agevolazioni. Si è perso di vista il vero problema. Cioè, nel senso che aiutare una persona detenuta o una persona diversamente abile passa per la tutela degli ambienti in cui vive. Ambienti lavorativi, tutto ciò che riguarda altro è completamente lasciato a caso. Questo scarica non solo la responsabilità sociale, ma anche i costi su coloro che gestiscono realmente la cooperativa. Defiscalizzazione, meno burocrazia per ottenere gli aiuti e più incentivi da parte della pubblica amministrazione sarebbero di grande aiuto per le cooperative, che svolgono un ruolo vitale per le persone che desiderano rifarsi una vita. Per i detenuti lavorare fuori dal carcere significa intravedere la fine della pena e tornare a familiarizzare con una società da cui si sentivano da tempo dimenticati. Il lavoro nelle cooperative rappresenta, nella grande maggioranza dei casi, il primo passo verso una vita nuova, lontano dalla delinquenza. Diverse nostre ex collaboratrici hanno aperto negozi di riparazioni, sono state avviate altre aziende e comunque lavorano. E da quando noi siamo nati sono passate non so quante persone, però che sono tornate a delinquere veramente una, due persone, ma le altre sono tornate tutte a una vita normale. Se un essere umano è messo nelle condizioni di non sbagliare in più e di capire quali sono i veri valori che danno ricchezza, ci ripensano e cambiano strada. In una società in cui è difficile farsi accettare anche dopo aver saldato i debiti con la giustizia, i prodotti sartoriali sono la voce di un'umanità che non vuole restare in gabbia. Abbiamo pagato e abbiamo fatto la dovuta fino in fondo. Il diritto a parlare mi sembra che ce lo devono avere tutti. C'è qualcuno che non ci ama. In America è il contrario, per esempio, il negativo viene esaltato se diventa positivo, no? Italia in controluce. Come funziona il mercato delle auto export in Italia? Qual è il meccanismo che lo governa? E soprattutto chi ci sta dietro? Il racconto di Nicola Cado. Con la fine del premio alla rottamazione, sbarazzarsi di auto ammaccate e troppo vecchie diventa sempre più difficile. La vendita per l'esportazione diventa così una soluzione per mettersi in tasca almeno qualche centinaia di euro. Biglietti da visita scritti in italiano approssimativo affollano le cassette delle lettere. Compro auto usate, ammaccate, guaste e pago in contanti. Una pratica effettuata di solito da soggetti nordafricani o dell'est Europa. C'è da fidarsi? La risposta di Emilio De Leidi, specialista della rivista 4 ruote. Se le vetture vengono regolarmente radiate per esportazione dal PRA, il problema per l'Italia non, dal punto di vista legale, non sussiste. Potrebbe sussistere se non venissero pagate all'ingresso del paese terzo destinatario della vettura le imposizioni fiscali che vengono riscosse di solito nei punti di dogana. Però questo è un commercio assolutamente lecito che ha aiutato negli ultimi anni molti operatori anche italiani e persino cittadini privati a liberarsi di automobili altrimenti invendibili sui nostri mercati. Penso per esempio ad alcune automobili diesel con più di 100.000 chilometri e parecchi anni di età che da noi sono destinate solitamente alla demolizione e che invece possono avere una seconda o una terza vita in paesi motoristicamente meno saturi e meno maturi. Una volta radiata dal registro pratico delle automobili, l'auto viene consegnata all'acquirente e non può più circolare. Poi viene trasportata verso Ucraina, Bielorussia, Moldavia oppure in Africa. Quello che succede al di là delle frontiere non è dato saperlo. Le più ricercate sono auto di grossa cilindrata, meglio se tedesche o giapponesi. Abbiamo provato a vendere una Mercedes classe C Station Wagon di colore bianco, vecchia di 8 anni. Io intorno a 2, 5, 3 mila posso offrire. Pagamento immediato, pago io il passaggio. Soltanto perché è colore bianco. Ho capito, se no, se fosse stata di un colore migliore, tipo grigio metallizzato, quanto sarebbe? 1.000 euro posso aggiungere, perché il bianco, sai, tutti pensano che era un taxi. E voi dove riuscite a rivenderle poi queste macchine? Noi lo mandiamo all'estero, in Germania. Le rivendono in Germania poi? Casa madre, sì. Ma da Germania vanno a quelli paesi. Russia, Bulgaria, Romania, quella roba lì. Ho capito, quindi c'è un secondo passaggio, fate un secondo passaggio. Noi facciamo il passaggio qua e poi lo mandiamo all'estero e vediamo. Ma quanto guadagnano i trasportatori di automobili? Ancora Emilio De Leidi. Gli acquirenti, che poi in realtà sono degli intermediari perché poi vanno a collocare queste vetture sui mercati dei paesi dell'est, guadagnano qualche centinaio di euro per vettura, che non è molto, ma che dobbiamo ricordare è comunque un guadagno netto in nero, perché nulla di questo viene fatto regolarmente denunciato, ed è comunque un guadagno che spesso va ad aggiungersi a quello primario di altre attività che queste persone esercitano nel nostro paese. Quindi alla fine in tasca dell'operatore che acquista materialmente l'automobile qui da noi restano poche centinaia di euro, che comunque sono un reddito sufficiente se moltiplicato per qualche vettura. Era la seconda e ultima edizione di Italia in Controluce per quest'oggi 8 luglio 2010. L'archivio di tutte le puntate lo trovate, vi ricordo, sul nostro sito radio24.it. Radio 24 Italia in Controluce è il titolo del nostro gruppo su Facebook. La mail per le vostre richieste, controluce@radio24.it. La stagione di Italia in Controluce termina qui. Torniamo puntuali il 30 agosto alle 6:30 su Radio 24.